4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buon maggio, amici ascoltatori, la prima puntata di questo mese che forse riserverà per noi automobilisti, per noi motociclisti, un tempo più mite e meno cattivo, meno duro, meno aspro di quello che è stato l'inverno, forse più lungo degli ultimi anni. Sono tanti coloro che ci chiedono itinerari, consigli di guida. Lo faremo finalmente prendendo spunto dalle prove che facciamo con gli amici di Quattro Ruote ogni sabato dalle 21 alle 21.45. circa. Una puntata speciale che troverete di nuovo su radio24.it da lunedì nella sezione naturalmente intitolata al nostro programma Quattro Ruote e Dintorni, e poi la nostra email molto simile, Quattro Ruote, scritto con il numero 4ruote@radio24.it. Oggi proveremo la Opel Insignia Sports Tourer con Alessandro Carcano di Quattro Ruote, poi parleremo con Emilio Delei, di un suo collega di Villa d'Este 2009, un concorso particolarmente elegante per auto d'epoca, si è tenuto lo scorso weekend, patrocinato per il 10° anno consecutivo dal gruppo BMW, e ha visto trionfare davvero a furor di popolo e di giuria un Alfa Romeo 8C, la 2009B per l'esattezza, berlina, estremamente bella, del 38, un'auto affascinante, ricchissima nei contenuti e nella tecnologia di 71 anni fa, pensate. Poi parleremo di Tata e del suo impero su quattro ruote, Quiz and Go, un gioco, una gara giocosa che si potrà realizzare attraverso le vostre adesioni e attraverso la collaborazione con l'ACI, è una sorta di caccia al tesoro in giro per l'Italia con la propria auto, e chiuderemo con l'avvocato Lievore che ci farà compagnia parlando del codice della strada nel dettaglio. Lo sentiremo tra poco di che cosa. Non svegliamo troppi contenuti perché sennò poi fuggite via. Adesso il buonasera va ad Alessandro Carcano. Ciao Alessandro. Ciao Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori. Fai tu una bella introduzione a questa Opel Insignia? Ma sì, dai, brevissimamente, giusto per presentarla, poi sentiamo come sempre le schede. Avevamo parlato qualche settimana fa della berlina, direi che la Sport Tourer dal punto di vista estetico la ricalca abbastanza, ma è sicuramente quindi un'auto accattivante dal punto di vista del design, con una particolarità di cui poi magari parleremo un po' più approfonditamente, che è quella del bagagliaio, con questa apertura a cui i tecnici della Opel si sono ispirati a un Autonov 124, che è un aereo cargo russo. Ecco, questa è una provocazione per dire che insomma deve essere il più larga possibile quella bocca dentro cui si introducono bagagli, animali, scatole, ormai sulle auto ci si vede di tutto, insomma. E questa è la Opel Insignia Sport Tourer, stiamo parlando di un 4 cilindri turbo diesel che rispetta la normativa Euro 5, sviluppa più di 160 cavalli, e quindi insomma un'auto anche prestazionale che ha stupito gli operatori di quattro ruote durante la prova realizzata. Allora adesso ascoltiamo insieme la scheda che ci introduce al mondo Opel Insignia. La nuova Insignia Sport Tourer trasmette, come la sorella berlina, un'immediata sensazione di solidità, merito soprattutto del design fatto di linee marcate e di forme sportive. Confortevole e soprattutto capiente, ha un vano di carico con una cubatura da riferimento, la cui apertura è ispirata alla bocca larga e regolare dell'Antonov, un aereo cargo russo. Divertente da guidare e dotata di ottimi freni, l'Insignia Sports Tourer è da preferire col cambio automatico Flex Ride. Nome: Opel Insignia Sports Tourer Cosmo. Carrozzeria: 5 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,90 m, larghezza 1,85 m. Motore: anteriore trasversale, diesel 4 cilindri in linea. Potenza: 160 cavalli. Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 6 marce. Prezzo: 29.651 euro. Allora, questi erano i dati principali della Opel Insignia. Saliamo a bordo. Qual è la prima sensazione per il comfort, le finiture, Alessandro? Sicuramente è un'ottima sensazione, perché comunque rispetto al passato si nota immediatamente che tutti gli aspetti sono curati nei minimi particolari. Innanzitutto è facilissimo trovare la posizione di guida, perché le regolazioni sono elettriche e soprattutto c'è la memorizzazione delle posizioni. E in secondo luogo i sedili sono comunque comodi e avvolgenti, e per quanto riguarda invece i materiali usati per le finiture, si capisce subito anche al tatto che le plastiche sono di ottima qualità. Decisamente. Allora parliamo di questo retro che ha fatto parlare di sé. C'è solo la Mazda 6 che, in quanto a misure, può tenere dietro una bocca di questo genere, però direi che segna proprio una specie di record, ispirandosi dunque alla bocca di un Antonov russo, di un aereo cargo russo. I designer hanno creato un'apertura quasi totale della vettura da dietro, vero? Esatto. Innanzitutto c'è questa particolarità che basta sfiorare il sensore sotto la maniglia per far aprire il portellone, che quindi è molto comodo quando bisogna caricare bagagli. E poi c'è una novità che non è assoluta, però comunque recente, che è quella di avere la regolazione interna tramite un tasto dell'apertura, per cui c'è la possibilità di farlo aprire a più posizioni, a secondo se sia per esempio un soffitto basso o comunque la porta del box bassa, per esempio. E per quanto riguarda questo motore, dicevamo 160 cavalli, un 4 cilindri turbo diesel, immagino sia il medesimo poi della berlina provata. Esattamente. Diciamo che ovviamente essendo più lunga, quindi rispetto alla berlina che sfiorando i 5 metri pesa 1800 kg circa, cioè, nonostante il motore si dimostra abbastanza pronto fin dai bassi regimi, tant'è vero che le prestazioni rilevate sono di buon livello. Per esempio lo 0-100 si sta sotto i 10 secondi anche se di poco, e si sfiorano i 210 km orari di punta. Ecco, vorrei citare anche le competitor principali in questo senso nel segmento: sono la Citroen C5, la Ford Mondeo, la Mazda 6 già citata. Ecco, con la Opel Insignia c'è una buona panoramica delle station wagon che non siano Mercedes e BMW di un segmento superiore, talvolta anche meno capaci in realtà a livello di bagagliaio. Molto bene, adesso ascoltiamo la pagella che dà i voti a quest'auto. Posto di guida. I sedili di questa Cosmo offrono le regolazioni elettriche e lato guida con memoria, quindi trovarsi a proprio agio è un attimo. Ma l'impostazione di base con comandi ben allineati è valida. Poggiapiede poco sagomato. 5 stelle. Finiture. La sensazione è di un insieme curato e ben fatto, con materiali della plancia e dei comandi su tutti, anche dove l'occhio cade meno di sovente. Qualche piccolo dettaglio di plastica più leggera appare invece un po' economico. 4 stelle e mezzo. Comfort. Voto medio tra il positivo comportamento della vettura in viaggio e qualche fastidio, dovuto alla gommatura super e al motore turbo diesel, che si fa sentire un po' troppo a basso numero di giri e in accelerazione. 4 stelle. Su strada. Con pneumatici da 20 pollici e buone sospensioni, l'Insignia ha livelli di tenuta sull'asciutto davvero elevati. In più, si inserisce in curva rapidamente. Meno convincente sul bagnato, dato che l'ESP interviene un po' in ritardo. 4 stelle. Questi erano i voti della pagella per questa Opel Insignia. Due particolari. Iniziamo dai fari. Ha dei fari particolari e mi riferisco agli abbaglianti, con un funzionamento particolarmente moderno. Non è una grande novità, l'abbiamo già visto, però già su questo settore lo è. Esattamente, Roberto. Questo è un sistema particolare automatico che, per esempio, in galleria attiva automaticamente i fari abbaglianti. Nel momento in cui rileva la presenza di una vettura in contromano o di fronte, li spegne automaticamente. Beh, molto comodo, devo dire, per nulla pericoloso. E poi l'inserimento in curva. Già nella pagella abbiamo sentito un buon voto per la guida. Insomma, un po' i 20 pollici di diametro aiutano sull'asciutto quest'auto a stare appiccicata al terreno. Però un inserimento sembra molto valido. Esatto, anche aiutata da uno sterzo pronto e preciso, comunque l'inserimento in curva è rapido ed è veloce nei cambi di direzione. Il tutto con una stabilità, direi, ottima. Molto bene, ESP un goccino in ritardo, questo aiuta il piacere di guida, ma attenzione sul bagnato. Grazie davvero ad Alessandro Carcano di Quattro Ruote, a prestissimo e buona serata. Grazie a te e una buona serata a tutti. Quattro Ruote e dintorni. Allora, come abbondantemente preannunciato, adesso ci occupiamo di India, o meglio, di India che sbarca in Europa, la famosa dico famoso ormai perché è finita sulle pagine di tutti i giornali, Tata Nano. Abbiamo al telefono Roberto Lovecchio, buonasera Roberto. Buonasera a tutti gli ascoltatori. C'è un'inchiesta interessante, un servizio, un'autonotizia si chiama tecnicamente, si chiama proprio Tata Nano, Tata scritta in una pagina, Nano sull'altra, due Nano a confronto, però c'è una differenza sostanziale. Non è il prezzo a pagina 96-97, non è il colore, è quella piccola scritta, Nano India a sinistra, Nano Europa a destra. E quindi definitivo la Tata Nano arriverà in Europa, Roberto. Assolutamente. Intanto due parole velocissime per inquadrarla. Ricordiamo agli ascoltatori che la Tata Nano è quella piccola autovettura che il costruttore indiano Tata ha appena lanciato sul mercato locale. Qual è l'importanza, qual è la sfida di questa macchina? Il fatto che costi veramente poco. In India è commercializzata per l'equivalente di 1.400 euro. Ecco, è questo che ha fatto soprattutto sobbalzare tutti i redattori delle sezioni auto, naturalmente dei giornali di mezzo mondo, perché ha detto, ma com'è possibile un'auto a meno di 2.000 euro? In realtà questo è il costo in India e tu ci spiegherai come si fa a tenere giù i costi, così come scrivi su Quattro Ruote. Diciamo subito, Roberto, che da noi le cose cambieranno un po'. Inevitabilmente perché la macchina che viene commercializzata in India non potrebbe arrivare sulle nostre strade. È chiaro che è una macchina ridotta assolutamente all'osso, si è lavorato tantissimo proprio per tenere i costi bassi, con una serie di soluzioni tecniche anche intelligenti, ma ovviamente anche togliendo cose, insomma, ne dico una su tutte le altre, tanto per far capire di che cosa si tratta. Il portellone posteriore di questa vettura, che è una vettura a quattro porte, non si apre, per cui l'accesso al bagagliaio avviene soltanto dall'interno, si deve abbattere il sedile posteriore e in questo modo si accede al vano bagagli. Da notare che nello stesso modo si accede anche al motore, perché la Tata Nano ha il motore collocato dietro e quindi bisogna svitare delle viti che ci sono sul pavimento del bagagliaio e sotto si arriva al motore. Naturalmente una soluzione di questo genere in Europa non sarebbe praticabile, non sarebbe accettabile. L'Europa impone anche dei gusti diversi che la gente paga volentieri. Per esempio il portellone che fine farà? Il portellone sulla versione europea naturalmente si aprirà nel modo tradizionale, e anche per l'accesso al motore si sta studiando qualche sistema un pochino più pratico che magari non costringa a togliere tutti i bagagli dal vano bagagli, e poi naturalmente si tratta di adeguarla da tantissimi altri punti di vista. In India ha un piccolo bicilindrico posteriore, da noi avrà un motore un pochino più grosso, un po' più potente. Si pensi che la velocità della versione indiana è limitata a 105 km orari, la versione europea dovrebbe arrivare invece a 150 km all'ora. Beh, poi i cavalli salgono a 60 cavalli, da 35, non è proprio poco se sarà confermato questo 900 centimetri cubi europeo, vero? Assolutamente. La macchina sarà anche un po' più grande, quella indiana è lunga 3,10 m, da noi si dovrebbe arrivare attorno ai 3,30 m, la carreggiata sarà un po' più larga e questo migliorerà comunque anche la stabilità, le ruote saranno un po' più grandi perché quella indiana ha delle ruote da 12 pollici che per noi sono una cosa totalmente del passato. No? Roberto, scusa, se di un'auto però si tocca addirittura la carreggiata, si modifica la carrozzeria a tal punto da farla diventare più lunga di 20 centimetri, si può parlare della stessa auto o si ha l'impressione che l'auto definitiva fosse quella europea e quella indiana un traino? Ma senz'altro, voglio dire, oramai certo ci saranno degli interventi che saranno abbastanza sostanziali, ma comunque la filosofia generale dell'auto sarà rispettata, sarà un'auto evidentemente molto, molto essenziale, molto leggera, molto pratica, perché con questo sistema del motore posteriore si guadagna tantissimo spazio all'interno dell'abitacolo e quindi sarà una macchina molto spaziosa e comunque è evidente che in Europa non parliamo di 1.400 euro, ma secondo le promesse del costruttore si dovrebbe stare attorno a un prezzo di 5.000 euro, che resta comunque un prezzo molto, molto allettante. Sì, decisamente, in un mercato comunque che è fatto anche per somiglianze di Toyota EQ, di Smart, di piccole 500, insomma sono tutti prezzi che rasentano quasi il doppio, si va dai 7, 8, 9 mila euro in su fino a 13, 14 per le versioni più ricche. Assolutamente. Facciamo un passo indietro e con questo chiudiamo, cerchiamo di conoscere, di capire, per quel che possiamo fare noi, la filosofia imprenditoriale e anche questa voglia, in parte qualcuno l'ha definita un po' aggressiva, in parte anche rispettosa, di Mr. Tata, che è un imprenditore indiano con tantissimo capitale a disposizione, con la voglia di intraprendere una carriera nella carriera, perché è arrivato a questo settore non fin da quando ero giovane, ma recentemente, comprandosi addirittura la Jaguar e la Land Rover a 2,3 miliardi di dollari dalla Ford 2 anni fa, se non sbaglio. Ecco, che dove vuole arrivare Tata secondo te? Beh, sicuramente l'ambizione non gli manca, hai perfettamente ragione, ricordando che parlare di Tata non vuol dire parlare soltanto di automobili. Tata è praticamente un impero e agisce in tantissimi settori diversi, dagli alberghi al settore finanziario, è veramente un colosso enorme in India. Tata è un grosso Ratan Tata, è un grosso personaggio in India, è capace anche di prendere delle decisioni inaspettate. Forse qualcuno ricorderà che la zona agricola dove doveva sorgere lo stabilimento per la costruzione della Tata Nano fu poi teatro di una rivolta popolare, di una rivolta dei contadini che si videro espropriate le terre per la costruzione di questo stabilimento, e lui non fece altro che dire: benissimo, non c'è questa fortissima opposizione. La Tata Nano è una macchina per la popolazione indiana non vuole che si costruisca qui, butto a mare gli investimenti che ho fatto fino adesso e la costruisco da un'altra parte. Eh sì, è capace anche di queste cose. Allora, grazie davvero per ora Roberto Lovecchio, ci ha fatto conoscere anche questo spicchio di India un pochino più da vicino. Grazie Lovecchio, a prestissimo. Grazie a voi. Allora, passiamo adesso ad un collega di Roberto, lo conoscete, si chiama Emilio Deleidi, ci fa spesso compagnia, esperto anch'egli di auto. Caro Emilio, intanto bentornato. Grazie Roberto, ciao, saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Ho incontrato Emilio sulla terrazza di Villa d'Este, sul lago di Como, sabato, non era un caso, non eravamo purtroppo in vacanza, eravamo lì per lavoro, ma in un'occasione davvero prestigiosa ed esclusiva, l'80° anniversario del concorso di eleganza Villa d'Este, e chi si occupa di auto d'epoca, chi si occupa di collezionismo, sa di che cosa stiamo parlando, perché con Pebble Beach in California Villa d'Este è diventato l'appuntamento più importante al mondo per auto d'epoca. Da qui naturalmente l'anniversario, oltre all'80° del concorso, anche il 100° anno di Bugatti per esempio, e l'80° anno da quando BMW, che patrocina questo concorso da ormai 10 anni, ha prodotto il primo modello di auto, voi capite come questo concorso sia diventato assolutamente importante proprio durante l'edizione 2009. Sarà per questo, non sarà per questo, fatto sta che quest'anno abbiamo visto delle auto davvero formidabili. C'è una regola sovrana che è quella che dice che, oltre a essere naturalmente originali, assolutamente in ordine con i documenti, tutte le auto d'epoca e le concept car, perché c'è un concorso anche per concept car, devono funzionare autonomamente. E così è stato. Più di 50 vetture ha vinto Emilio un Alfa Romeo. La vuoi descrivere tu? Sì, certo, Roberto. Beh, sono. Ci siamo incontrati per un appuntamento che è veramente un po' al sapore di un'altra epoca, no? Perché anche le persone che frequentano con le loro auto queste situazioni hanno spesso abbigliamento un po' particolare, hanno un gusto un po' particolare e naturalmente delle vetture straordinarie che partecipano a questo genere di concorsi in giro per il mondo. Hai citato Pebble Beach proprio perché l'auto che ha vinto tutto quest'anno a Villa d'Este aveva vinto anche l'anno scorso a Pebble Beach. Si tratta di una straordinaria Alfa Romeo 8C 2009B del 1938 con carrozzeria aerodinamica della Touring, che appartiene a un ricco signore di San Diego, che nella sua vita professionale è stato anche un presidente di Microsoft, quindi diciamo una persona che oggi è probabilmente in pensione, comunque raggiunta una certa età, può dedicarsi a questo hobby assolutamente esclusivo e certamente costoso. Ha vinto tutto perché ha vinto il Best in Show, assegnato dalla giuria che era presieduta da Lorenzo Ramacciotti, che è il capo dello stile Fiat, ma che vedeva al suo interno anche personaggi come Lord March, che ricordo è l'organizzatore del Festival of Speed di Goodwood, un'altra grande manifestazione per veicoli storici, per auto storiche, sì, sì. E anche Patrick Lecquemain, che fino a non moltissimo tempo fa è stato il responsabile dello stile Renault, quindi una giuria di altissimo profilo. Ha vinto tutto perché ha vinto anche i premi assegnati dalla giuria popolare, cioè il referendum di Villa d'Este e di Villa d'Erba, in cui i visitatori davano il loro giudizio. Ecco, un po' come dire che l'auto di John Shirley, così si chiama il proprietario, che proviene da Seattle, ha messo d'accordo per la prima volta, pensate, dopo 80 anni, tutte e tre le giurie coinvolte, quelle pubbliche e quella di, chiamiamola, privata, di esperti del sabato. Era una manifestazione a porte chiuse e a Villa Erba, lì vicino, sempre sul lago, invece la domenica aperta a tutti. Tra l'altro, bellissime auto, abbiamo visto una Lamborghini Miura S Coupé del 69, carrozzata Bertone, abbiamo visto una Momo 2+2, un concept meraviglioso di 30 anni fa, insomma tantissime auto Rolls Royce molto ben restaurate. BMW, va detto, che riesce con questo patrocinio, pensate, un'azienda così che organizza un evento di questo tipo riesce a non influenzare la giuria, tanto che ci sono anni in cui vincono Mercedes, in cui vincono Ferrari, Alfa Romeo e così via. Questo è un plauso che facciamo volentieri alla casa tedesca. Ora, Concept Car, per quale hai votato? Così ne raccontiamo un po'. Io ti anticipo dicendoti che l'Aston Martin 177 sarà prodotta in 77 esemplari, un mostro da 700 cavalli e più di 320 km orari, mi ha staccato gli applausi più profondi, Emilio. Certamente, era anche una delle vetture più spettacolari e forse all'avanguardia, però ci sono due concept che mi hanno colpito in modo particolare. Una è abbastanza conosciuta ed è proprio della BMW, la Gina Concept, che è un prototipo, un po' il testamento di Chris Bagnall, che ha firmato proprio poco prima di lasciare la casa bavarese la responsabilità dello stile, ed è caratterizzato da una carrozzeria di tessuto. Se la tocchi con un dito si deforma, il dito entra nella carrozzeria e questa carrozzeria può essere trasformata, quindi diciamo un concetto molto all'avanguardia. A seconda proprio dei gusti del guidatore si può modificare nella forma e evita le ansie del carrozziere. Emilio, dobbiamo chiudere, grazie per ora per questo collegamento e al prossimo concorso di eleganza, prestissimo. Grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Quattro ruote e dintorni. Dunque, vorrei salutare subito l'analista del Sole 24 Ore, il professor Paolo Malagodi. Buonasera, professore. Buonasera, Roberto. E bentornato. Ci fa sempre compagnia, lo sapete, o alla fine del mese o subito all'inizio del mese successivo, per cercare di analizzare al meglio cosa è successo all'interno del mercato dell'auto. Ci riferiamo, come sempre, naturalmente, alle nuove immatricolazioni. Attraverso le nuove immatricolazioni, quante persone sono entrate nei concessionari, quante aziende hanno immatricolato auto nuove, si capisce quale sia la salute precisa del mercato dell'auto. E dopo che gli incentivi varati definitivamente l'11 febbraio hanno fatto rialzare il mercato sia di fine febbraio che di tutto marzo, c'è una grande sorpresa in aprile. Professore, lascio a lei il piacere o il dispiacere di dirlo. Ma io seguo l'andamento del mercato. Quando il mercato va male, anche il mio stato di salute tende leggermente a peggiorare, come in questo momento con un po' di raffreddore. Ma è un po' di raffreddore, quindi niente di grave, non è una febbre suina, è un qualcosa di più blando. Così il mercato, perché tutti ci aspettavamo, dopo la buona performance di marzo, con una raccolta ordini di 279.000 unità, quasi un record assoluto, un aprile che potesse quantomeno confrontarsi con le 204.000 scarse, qualcosa di meno, 204.000 circa registrazioni che si erano avute un anno addietro. Beh, non è avvenuto così, e quando ci sarà la comunicazione dei dati del Ministero, che solo lunedì, giorno 4, primo giorno lavorativo del mese seguente, alle ore 18 verranno diffusi, noi ci troveremo di fronte a un segno meno. Questo è il dato. Di quanto sia questo segno meno oggi significa fare una stima sul volume che è affluito nell'ultimo giorno lavorativo, ultimo giorno lavorativo che verrà elaborato dal sistema ministeriale soltanto nella giornata di lunedì, presumendo che le immatricolazioni dell'aprile che abbiamo o stiamo per concludere abbia una valutazione attorno alle 193.000 unità, noi avremmo, che essendo state circa 204.000 quelle dell'anno scorso, il segno meno è del meno 5,3. Certo, va detto, professore, che questo sarebbe un dato preoccupante di per sé, però c'era Pasqua innanzitutto, qualche giorno rosicchiato dalle festività, e poi può essere forse aprile un mese interlocutorio per chi invece a maggio e giugno si prepara con l'estate e con un'auto nuova. Che cosa ne pensa? Sospendiamo il giudizio fino a fine maggio? Beh, soprattutto perché il prodotto che il cliente richiede, quello GPL e metano, con l'aggiunta sempre di offerte delle case, è quello che porta i concessionari ad accumulare liste d'attesa dell'ordine ormai dei 2 mesi. E poi in generale le soste produttive che tutte le case a livello europeo avevano effettuato nei mesi di gennaio e in parte in febbraio hanno rallentato la disponibilità di prodotto presso le concessionarie, ragion per la quale è soprattutto una scarsità di prodotto che non permette di raggiungere e superare le 200.000 unità in aprile. Quando a maggio avremo una produzione maggiormente allineata con le richieste che da fine febbraio, marzo in poi i concessionari hanno trasmesso alle case, occorrono circa 2 mesi per l'adattamento delle produzioni alle richieste dei concessionari, beh allora a maggio, come dice lei, avremo decisamente un cambiamento di segno e avremo di nuovo un buon segno più, credo, per quanto riguarda un andamento anche di giugno e dei mesi successivi. Quindi non è un calo della domanda, la domanda c'è, anche gli ordini questo mese sono superiori a quelli dell'anno scorso, avremo un aumento di circa un 7-7,5%, quindi il mercato sta reagendo agli ecoincentivi. Sì. Certamente la pausa produttiva e la nuova domanda orientata, diciamo come prima, su vetture particolari fa sì che non vi sia in questo aprile, anche per le festività pasquali e quant'altro, un sufficiente volume di consegne, ma il mercato avrà un suo tono migliore già in maggio. Auguriamocelo. Professore, entriamo in casa Fiat per un solo minuto e poi ci salutiamo. Com'è andata Fiat ad aprile? Ma Fiat ha mantenuto delle ottime quote per tutto il mese e chiude con un 33%, perché Fiat poi gode del vantaggio di presentare delle macchine piccole, quelle che sono più richieste da chi rottama una vettura vecchia e quindi tende a spendere poco. Ha il vantaggio di avere un'ottima offerta di vetture a GPL e a metano, e quindi a questo punto va nella giusta direzione di ciò che richiede l'offerta e va bene. Così sta andando molto bene Ford, che avrà da maggio, ecco questa è una novità che anticipiamo ai lettori, oltre alle ai nostri ascoltatori, oltre alle vetture a GPL che già Ford offre, sono la Focus e la Mondeo GPL, avrà anche la Fiesta col motore 1.4, è una novità molto importante che permetterà a Ford di andare ancora meglio, ma già questo mese siamo sul 10% abbondante. Esatto, vedremo, cercheremo di capire allora a fine maggio come queste case si comporteranno. Grazie per ora al professor Malagodi, a prestissimo e buona serata. Buona serata. Passiamo adesso ad un altro argomento, vorrei presentarvi l'ideatore e realizzatore di un progetto che si chiama Quiz and Go. Si tratta di giocare, tra virgolette, con uno dei più fondamentali social network di sempre, che è quello della caccia al tesoro, abbinato a questo gioco molto particolare. In collaborazione con ACI, Antonio Capocasa ha ideato Quiz and Go e ci spiegherà esattamente di che cosa stiamo parlando. Caro Antonio, intanto buonasera. Benvenuto. Grazie, buonasera. Come spieghiamo, Antonio, agli ascoltatori Quiz and Go? Si può dire che è un gioco? È una gara giocosa, però, una gara non competitiva, una gara a punti, è una grande caccia al tesoro su tutto il territorio nazionale per automobilisti. È necessario avere un'auto e un cellulare. È un cellulare normalissimo di quelli in commercio, l'unica particolarità è che deve essere abilitato agli MMS, perché la caccia al tesoro sarà guidata attraverso una serie di indicazioni che arriveranno sul cellulare con SMS e i concorrenti saranno condotti lungo un itinerario nella propria città a raggiungere una serie di tappe. Queste tappe sono individuate con degli indovinelli e una volta raggiunta la tappa il concorrente deve rispondere a una domanda relativa al luogo dove si è recato. Molto interessante, ecco perché ci vogliono anche le prove naturalmente documentali di quanto trovato, di quanto raggiunto. Diventiamo pratici, Antonio, e diciamo dove prendere le informazioni, chi può partecipare, eventuali costi oppure premi. Bene. Il costo è 40 euro ad equipaggio, l'equipaggio deve essere formato da minimo 2 persone, il massimo è dato dalla capienza dell'auto, dalla omologazione dell'auto. Dove si può iscrivere? Presso gli Automobile Club o le delegazioni ACI di tutta Italia, sono 1700 in tutte le province, oppure sul sito di Quiz&Go, www.quizandgo.it, scritto quizandgo.it. All'inglese, proprio quizandgo.it. Esatto, molto bene, c'è tutto per divertirsi. Grazie ad Antonio Capocasa di In Lucina Associati. A presto e buona serata. Altrettanto, arrivederci. E adesso chiudiamo in bellezza con il codice della strada imbracciato dal nostro avvocato Erika Lievore dello studio Lievore di Milano. Buonasera avvocato. Buonasera a lei, ascoltatori. Lei ogni volta ci insegna insomma a usare intelligentemente questo benedetto codice della strada che troppo facilmente noi dimentichiamo, e allora abbiamo deciso 15 puntate fa di iniziare proprio da zero. Abbiamo parlato di stop, abbiamo parlato di fare, abbiamo parlato di precedenza, abbiamo parlato di tante dotazioni della sicurezza. Non ultima, oggi dobbiamo parlare di cinture di sicurezza, e allora prendiamo spunto da Marco che ci ha scritto e le chiede: senta avvocato, ma se io porto qualcheduno che non si vuole allacciare la cintura di sicurezza, che cosa succede? Di chi è la responsabilità nel caso ci fermi la polizia, avvocato? Allora, partiamo come sempre dalla norma, dicendo che è l'articolo 172 del codice della strada a regolare l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini. Va subito detto che spetta al conducente il compito di assicurarsi della efficienza dei dispositivi di ritenuta e innanzitutto che hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza tutti gli occupanti di un veicolo, anche quelli quindi dei sedili posteriori. Sì. Possono essere esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza solamente, diciamo, gli appartenenti alle forze di polizia nell'espletamento del loro servizio, eventualmente gli istruttori di guida, coloro che sono affetti da particolari patologie, quindi devono portare con sé anche un certificato medico che attesti questo stato, sì, o le donne in condizioni di gravidanza, quindi anche se con certificazione medica. Mentre per i bambini di età inferiore ai 3 anni che sono seduti posteriormente potranno non avere i sistemi di ritenuta purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore ai 16 anni. Ecco, questo dice il codice della strada come obblighi, ma allora se Marco porta un amico che non indossa la cintura di sicurezza, chi è responsabile? Allora, la responsabilità del mancato utilizzo ricade su chi ha omesso di indossarle, quindi in questo caso sulla persona trasportata. Sì. Quando il mancato uso riguarda invece un minore, la violazione ricade invece sul conducente, quindi sarà il conducente a risponderne. Sì. Bisogna però dire che la Cassazione si è espressa a tale riguardo, stabilendo che in caso di incidente dovuto alla circolazione del veicolo in una situazione di insicurezza e ricollegabile quindi anche a un'azione del conducente che ha partecipato alla condotta colposa tra virgolette del trasportato accettando i rischi di portarlo con sé pur non avendo, sì, le cinture di sicurezza allacciate, anche il conducente concorrerà nella colpa del trasportato per la responsabilità dei danni che potrà aver avuto lo stesso trasportato a causa dell'incidente. Quindi appunto evitare di circolare o rifiutarsi di circolare se la stessa persona che trasportiamo non vuole allacciare le cinture. Ma sì, il consiglio è tanto banale quanto utile, e cioè se qualcuno non vuole, si impunta, non vuole allacciare la cintura accanto a voi, o lo lasciate lì e procedete o non vi muovete, tanto la chiavetta sul cruscotto la girate voi. Questo non per malizia, non per cattiveria, ma perché se succede qualche cosa concorrerete voi in prima persona ai danni di quanto provocato dall'incidente stesso, se qualcuno accanto a voi non ha la cintura di sicurezza. Allora, velocemente le sanzioni e ci salutiamo. Certo, allora le sanzioni vanno da 70 a 285 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. Quando il conducente è incorso nel periodo di 2 anni in una delle violazioni del mancato uso delle cinture di sicurezza per almeno 2 volte, all'ultima infrazione consegue anche una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Questo nel caso la recidiva sia di 2 volte in quanti anni? In 2 anni. In 2 anni. Grazie, avvocato Lievore, a prestissimo. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori, buon lavoro. La trovate naturalmente come sempre alla nostra email, a cui potete scrivere per qualsiasi argomento della nostra trasmissione, 4ruote@radio24.it. Vi ringrazio tantissimo per l'ascolto che ci avete voluto dare. Valeria in regia, Roberto Rasia in voce, vi ha fatto compagnia e vi auguro soprattutto un buon weekend.